532. Arrosto di lepre seconda maniera. Se la lepre sarà ben frolla, potete arrostire i quarti di dietro senza farli precedere dall'infusione nella seguente maniera. Levate le pellicole più grosse dei muscoli esterni e steccate tutto il pezzo di lardelli di lardone che avrete salati avanti. Infilato allo spiede, avvolgetele in una carta imburrata e cosparsa di sale. Quando sarà cotto, togliete la carta e con un ramoscello di ramerino intinto nel burro, ungetelo e fatelo colorire, salandolo ancora un poco. 533. Coniglio arrosto. Anche per un arrosto di coniglio allo spiede non si prestano che i quarti di dietro. Steccatelo di lardone, ungetelo con olio o meglio col burro e salatelo a cottura quasi completa.